diremmo che questo brano del Vangelo fa parte dei discorsi di addio, cioè la vicenda terrena di Gesù va verso la sua conclusione. Altra annotazione: nessuno ha stenografato o annotato i discorsi di Gesù, anche se gesti, parole di Gesù sono rimasti indelebili nel cuore dei discepoli, della persona che l'hanno vista, questa persona Gesù, e l'hanno ascoltata. Per entrare meglio in questo quadro evangelico, sottolineerei almeno quattro cose che sono fondamentali, secondo il mio modo di vedere. È importante mettere ordine nella architettura simbolica presentata da Giovanni. Io sono il rapporto tra vita, vigne, agricoltore, frutti. Terzo, rimanete in me. E quarto, quel tremendo, senza di me non potete far niente. Io sono, questo è il nome di Dio quando appare a Mosè. Io sono colui che sono. E quando il faraone mi chiederà che nome ha colui che mi manda, tu dirai: io sono, mi ha mandato. Io sono la vite. Non dice vigna. Voi tralci. Il padre mio è l'agricoltore. Naturalmente è tutto un linguaggio simbolico. Gesù si identifica con la vite, vite eletta, vite scelta. L'agricoltore Dio vi pota perché porti frutto. Ma che linguaggio è questo? La vita quando è potata piange, ma è la garanzia del frutto che produce. I vecchi contadini dicevano che l'apparire di quella lacrima così dolce è la vita che va in amore. La vita che va in amore. Come dire, se la stessa linfa scorre in Gesù, vita e un tralcio, allora anche la mia vita porterà frutto attraverso un amore, un frutto elegante, un frutto che fa rigurgitare le coscienze. E ancora, c'è una promessa: rimanete. È una parola che ritorna almeno 15 volte. Indica fedeltà, indica perseveranza, indica coraggio. C'è un'unica linfa. Rimanete fedeli all'innesto, custodite la fede, osservando il comandamento nuovo. Rimanete e porterete molto frutto. è prendere sul serio la prospettiva che le nostre vite non sono inutili, mai, non sono sterili, mai. Sono provati, se volete, dalla direzione alle volte dolorosa. L'agricoltore Dio si prende cura. Faccio notare che si dice due volte: ogni tralcio che in me non porta frutto verrà reciso, che sembra in contraddizione con l'altro passo. Chi rimane in me e io con lui porta molto frutto. Perché i tralci sono con lui, sono lui, attaccati a lui, vite aggrappate, non possono non portare frutto. Mi pare che si possa dire: attaccati alla vite non è come per gli alberi, una necessità di natura. Per noi uomini e donne è una libera scelta. E da ultimo l'indicazione: rimanete, che è diverso dal dire venite a vedere dove abito, no? Dice rimanete, con tutto quello che comporta il rimanere. Perché senza di me voi non potete far nulla. È un pugno nello stomaco. Richiama quando Giovanni dice all'inizio: tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto. Tutto ciò che è stato creato è stato fatto in Cristo. Faccio un'osservazioncina che può essere utile. Soprattutto in Occidente, la comunità, le comunità, le chiese, forse non ho mai avuto il coraggio di dire fino in fondo questa verità, che uso una parola grossa, cosmica. Cosa voglio dire? Che tutto quello che esiste è stato fatto all'ombra di Cristo, dentro nella vita di Cristo. Dignità del creato, dignità delle cose, dignità degli esseri, dignità degli animali, dei vegetali, dei minerali e quindi dell'uomo. La verità cosmica. Teilhard de Chardin diceva: Dio è presente anche nelle pietre. Allora, che cos'è questa? Senza di me non potete far niente. Ora si comprende bene o è parte di un integralismo religioso perfido. Chiudo. Cosa ne discende da tutto questo? Senza di me nulla. Che forse quelli che non credono in Cristo non possono far nulla di buono? È una tentazione ancora all'interno delle chiese e quindi anche in questi anni si scrive, si sente dire: se Dio non c'è, nulla è permesso. Per dire che dove c'è l'ateismo, forse non c'è capacità morale del bene. questa è una bestemmia contro Dio. Se c'è una verità, che l'uomo è creato immagine e somiglianza di Dio, è che uno crede o non creda, per l'immagine che Dio gli ha posto dentro in lui, è sempre capace di discernere il bene, capace di etica, capace di far bene. Ho trovato qualche scritto dei padri orientali che dicono e ripetono che l'uomo, quando pena e quindi quando pecca, perde la somiglianza con Dio, mai perde l'immagine di Dio. Allora è corretto la testimonianza. Non è questione di cristiani, non cristiani. La divisione è tra idolatri e chi rinnega l'idolatria. Far assurgere le cose al posto di Dio, chiamati a portare frutto, il nome nuovo della morale evangelica non è sacrificio, ma fecondità, non rinuncia, ma centuplo, non si fa penitenza, non c'è bisogno, ma di frutti con dentro buon sapore del vivere è il nostro orizzonte. Per oggi può bastare. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in testa. Noi ti